Ci siamo, Gabriele Vasquez, buon pomeriggio, anzi buonasera, ben arrivato, come va? Grazie, tutto bene, ma che era prima? Mi sono arrivato a metà e non ho capito. Niente, che... lascia stare anche Grimaldi che ha fatto una cosa, vabbè. Ma poi è andato tutto a carte 48 perché la prendi come alla Carlona, capito? Dunque, parliamo subito, ci sei? Ecco. Sì, ci sono. Ci sei? Pronto. Parliamo subito del nuovo film, del grande, immagino... Il gioco, capito cosa dici? L'immenso. Chi? Massimo Boldi. No. Ah, peccato. Il nuovo film Matteo Garrone. Ah, il nuovo film di Matteo Garrone. Titolo provvisorio Big House. Titolo provvisorio, non so se quello sarà quello definitivo. Sarà una commedia. Questa è già una novità, perché lui non ha mai fatto commedie. E è stato girato in parte a Cinecittà, però solo delle piccole parti. Il set era molto molto chiuso, era molto, sembrava Nanni Moretti con il grado di riservatezza che aveva applicato al suo set. E so che ora è in fase di montaggio, quindi se lo volevo prenderti in castagno. Guarda che mi sono comperato. Vedo quell'arancione, già ho capito che edizioni sono. Quello è un film d'altri tempi, vero? Guarda che roba. Grande, bellissimo, bellissimo. Maschere e pugnali di Fritz Lang, grandissimo. Poi guarda qui. Grande Ipcress, io sono un fan dell'altro, il 2, quello che si chiama Il cervello da $1 million. Che è fatto quello da... finisce un po' male. Però è fatto da Ken Russell, sì, mi ero fomentato. Sì, però finisce un po' alla Carlona, un po', insomma, però è bello anche quello. Sì. Ultimo, ma non per importanza. Il grandissimo. Grande. Hai visto mai questo film? Sì. C'è, per forza. I 5 volti dell'assassino immancabile. Che film. Sono introvabili, quindi li ho dovuti trovare. Va bene, allora parliamo invece del cinematografo. Cosa è successo questa settimana? Bar Sport. Allora, Bar Sport subito. Beh, subito nel vivo, certo che l'ho visto. Io spero tanto che sia un bel film perché vorrei andarlo a vedere. Aspetta, no. Posso dirti una cosa? Comunque, adesso parliamo di Bar Sport. No. Ma comunque, io, tu sappi che io l'altro ieri, no, ieri sera io ho visto il film, non voglio dire dell'anno perché, però degli ultimi 5 mesi. Almeno, poi vedremo che succede. Insomma, ho visto un film. Beh, cominciamo con Bar Sport. Mannaggia. No, io già ti vedo. Lo so, io ho un volto e non posso giocare a poker, capito? Che io ho un volto espressivo. Dai, parla. Sai qual è il punto? Dai, e che non è un... Sai, dice, non gli è venuto bene. È proprio no. Venuto male? Proprio no, non ci siamo. Ma allora, cosa è Bar Sport? Bar Sport è una commedia italiana piena di bravi attori che viene tratta dall'omonimo libro di Benny, che è un libro ristampatissimo, lettissimo. Un libro bellissimo. Esatto, bellissimo. È un libro notissimo, insomma, forse il più famoso di Benny, ossia la spanna, è probabile che sia tra i più famosi. Da quando uscì? Ma negli anni 70? Esatto, mi sembra 70. Io lo lessi proprio all'epoca. All'epoca, sì. E ero insomma, piccolo, 7 anni, 8 anni. Te l'hanno letto. Ci ho messo 2-3 anni per leggere. Prego. Insomma, Bar Sport è il film tratto da questo libro ufficialmente. Rimette in scena tutte quelle. A quella struttura episodica anche del libro, rimette in scena diversi episodi, andando a toccare poi i topoi del libro, tipo la Luisona, il tecnico, tutte quelle cose. E per le parti più visionarie, quelle proprio iperboliche, si aiuta con dei disegni, con delle, per esempio i racconti che fa il tecnico, ricordo molto divertente quello lì del ciclismo, la tappa massacrante Portogallo-Leningrado, le cose... È vero, sì, mi ricordo, ma io lo lessi veramente tanto. E che viene fatto con dei disegni, narrato da Bisio, che interpreta il tecnico. Che c'è che non va? Allora, Bar Sport... Il libro è bello. Il libro è bello e si vede già, e dal film si vede che il libro è bello, perché si vede che la sceneggiatura è divertente, ma è proprio un film reso male. Perché? No. Perché va a ravanare nello stereotipo più stereotipo, appiattendo. Cioè il libro si poggia sugli stereotipi italiani tipici. Vabbè, ma scusa, poi, se deve essere fedele al libro. Aspetta, aspetta, il libro si poggia sugli stereotipi tipici italiani e poi però fa un salto, cioè li fa diventare divertenti, grotteschi, certo. Li usa per divertire. In film no. Il film innanzitutto è molto poco divertente. Cioè non riesce a rendere quelle battute e quell'umorismo in una maniera coinvolgente. È come se non è recitato male, ma è come se venissero recitate male, nel senso che non fanno ridere, non ha i tempi. Poi utilizza una serie di effetti sonori da cartone animato di un fastidioso raro. Puff Boom Boing. Esatto. No. Fastidiosissima. Ma veramente Boing Crash Slam. Esatto, esatto. Una cosa veramente mi ha infastidito oltre ogni dire. Chi hai chiesto al regista? Chi è il regista? Doveva fare il remake immediatamente. L'ho fatto bene. Lo dirigi tu, ci fatto penso, bene. Ci penso io. Allora, il film è diretto da, e vedi che attendo perché non me lo ricordo in realtà il nome, da Massimo Martelli. Da Massimo Martelli. E avevi ragione tu a aspettarti molto, perché tra Claudio Bisio, Giuseppe Battistone, Angela Finocchiano, Cornacchione, Luventa Savino, insomma, tutti gli attori che sono messi nel film, c'era di che aspettarsi, giustamente. Invece, terribile. Devo dire che l'unica nota positiva è, come quasi sempre, Bisio, che devo dire è straordinario, è sempre straordinario, è sempre una spanna sopra tutti, è pazzesco. Però veramente si dipena in un film che non gli rende onore. Sai a chi interpreta l'avventore che mangia la Luisona, che è un po' un topos di questo libro? Un attore che non c'entra niente con questo film, con questi film, però ha insistito come un matto per fare questo ruolo, perché era un fan del libro, cioè io devo fare assolutamente. Certo, chi? Claudio Amendola. Claudio Amendola, ma ci prende? Ci sta, Claudio Amendola ci sta in quel ruolo, che lo fa veramente con una passione. Ma Teo Teocoli pure ha bucato? Sì, Teo Teocoli fa il grande playboy, il grande playboy pallonaro, esatto. Ha bucato? Sì, terribile. Rimette in scena quei personaggi che un po' faceva mai dire gol quando faceva quei ballettini, però con una stanchezza terribile. Cioè, insomma, peccato, veramente sono rimasto peccato, male anch'io. Peccato. Un'occasione persa, perché il libro, cioè, mannaggia. A chi l'avresti fatto fare tu questo film? No, vedete, questa è un'ottima domanda. Lo so, io sono un grande intervistatore. Ma questo si sente. Allora, fammici pensare, un film del genere. Ah, questo lo può fare, dico io, secondo me chi lo deve fare questo film? Lo deve fare Silvio Soldini, il regista di Pane e Tulipani, di Non Pensarci, di Agatha la Tempesta. Un regista di commedie italiane molto recenti, abituato a gestire un cast grande, abituato a mettere in scena anche roba che non ha scritto lui, e molto forte sul comico, molto forte sulla battuta. Io avrei fatto fare uno così. Gli attori lasceresti questi, perché sì, questi erano sono ottimi, bravi, ottimi. Cioè, hanno preso il meglio del meglio, cioè, da quel punto di vista. Sulla carta erano perfetti. Con questi dici vinco facile. E invece il cinema non si fa con la matematica. Ecco, questa è. Posso aggiungere, il cinema non si fa con i nomi. Ma ancora meglio. Va bene, ma veniamo a il film della settimana. La settimana che è Matrimonio a Parigi. Beh. Allora io aspetta, siccome... quindi anche le cameriere hanno le cameriere e le cameriere delle cameriere hanno... Bella questa, bravo. Io che sono, cioè non solo sono un critico, vabbè, incredibile, ma sì, questo va bene, sì. Ma sono anche un reporter d'assalto. Sono andato alla conferenza stampa. Mitico, ma bravo, non è che bravo, mi sono, bravo. Non mi sono fermato alla conferenza. Sai, dici, vai lì, sento quello che sentono tutti e me ne vado. Hai fatto le domande? Sono rimasto dopo l'assalto, capito? L'assalto mentre mangiavano. Agli attori? Mentre mangiavano agli attori, capito? Ma col microfono così, fatemi passare, esatto, fatemi passare. Esatto, giù le mani alla telecamera. ne ho presi da parte un paio. Non ho preso da parte Massimo Boldi, perché avete letto ovunque. Ha già detto quel che doveva dire. Sono andato sulle novità, sulla carne fresca. Bravo, ma di che stiamo parlando? Allora, Matrimonio a Parigi è il nuovo film di Massimo Boldi, che, come sapete, ormai sanno tutti, da almeno 5 anni ha mollato i cinepanettoni ufficiali, cioè i film con Natale nel titolo e si è messo a fare film suoi che hanno quasi sempre matrimonio nel titolo. Questa è una caratteristica che li contraddistingue. Quindi dopo Matrimonio alle Bahamas e dopo quello veniva dopo La fidanzata di papà, che poi si sposavano però, adesso viene Matrimonio a Parigi. Quindi ruba un po' quel format di andare ogni volta in un posto diverso mantenendo fissa un'idea. Come sapete, un'altra cosa, Massimo Boldi si è portato con sé dal team di Natale tutta la parte più fracassona, più fregnaccione. Prima c'erano anche i Fichi d'India, adesso qui c'è sempre Enzo Salvi e in più in questo c'è Biagio Izzo, che sempre fa film con Massimo lui. Massimo Ceccarini, giustissimo. E qui guest stars ci sono due nomi, uno notissimo, un nome che conoscono tutti in Italia, e uno per niente noto, ma comunque importante. Sono quelli che ho intervistato io, non a caso. Bravo, mi piace. Uno è Rocco Siffredi. Ma c'era Rocco Siffredi. E l'altro è Guglielmo Scilla. Che tu direi, Guglielmo Scilla, chi è? Guglielmo Scilla è Wilwush. E tu direi, ma chi è Wilwush? Chi è? È il detentore del primo canale per numero di iscritti su YouTube in Italia. Cioè è lo youtuberaro più noto d'Italia. Quindi, e come mai? Perché è successo, ecco, ma è difficile, cioè vanno visti i suoi video, è uno che ha grandissima presa sul pubblico, chiaramente della sua età, lui ha 23-24 anni. Ah, ma lui gira i video? Sì, si riprende, parla in video, fa scenette, cose, inventa cose su YouTube. Ed è di gran lunga il tenutario del canale più visto, quindi insomma è un nome noto da quel punto di vista. E io chiaramente ho intervistato. Bravo. Allora, tecnologia, esatto. Poi ti devo chiedere una cosa, un occhio al... A proposito di tecnologia, ti devo chiedere una cosa dopo, verso il finale, su, preparati intanto, digitale, pellicola. Allora, celluloide e cellulare. Bravo. Ok, va bene. Carico il file intanto. Sì. Dicevo, allora, Rocco Siffredi è stato chiamato ed è, diciamo, il primo film, come ha detto lui, è il primo film sul cui set posso far venire i miei figli. Perché questo comprende sia la carriera da porno, che poi lui ha avuto anche una carriera al cinema di film serissimi dove lui comunque faceva delle parti mezze porno, quindi comunque era una roba su cui lui non portava i suoi figli sul set. Invece questo qui è un film chiaramente per famiglie, e come spesso capita in questi film che sono veramente fatti, ma lo riprendono solo dal busto in su perché per essere per famiglie Come spesso capita in questi film, che sono fatti con una trascuratezza veramente rara, lui non interpreta se stesso, ha un ruolo, però comunque tutti quanti danno per scontato che questo personaggio che lui interpreta, senza che nessuno lo dica, abbia le sue caratteristiche fisiche, solo per il fatto che noi lo conosciamo così. Vabbè. Quindi potete immaginare con Ceccherini i doppi sensi che hanno voluto tirare fuori, ma proprio in carriera ne avevano a pacchi. Io gli ho fatto una domanda inerente al film, cioè bravo. In generale, se questo tipo di film, lui che non è abituato, ma come si è posto nei confronti della telecamera a spalla, cioè in generale, se lui trova un film del genere che per lui è strano, è diverso, più faticoso dei film faticosi, che sono quelli che fanno, quelli proprio da sforzo fisico, e lui dice no, ma in realtà no, cioè comunque il porno che tornerà a fare, che non è che vuole abbandonare per nulla, lo trova più faticoso. E dice anche che, questa è una cosa che dice lui, dei giocatori di calcio, che non dice il nome, però c'è comunque gente con due cosce così, questo è il termine che ha spesso lui, non ce la facevano a reggere determinate posizioni che invece lui regge. Si è vantato di questa cosa, che non è una questione di muscoli, non è una questione di allenamento. Lo so benissimo. È vero, E poi gli ho chiesto anche un'altra cosa, adesso chi l'ha visto questo video che citerò mi capirà, gli ho chiesto, senti, ma il video di Belen, tu l'hai visto? Che gira da settimane, gira in rete un video amatoriale di Belen prima che si fosse famoso. Porno, esatto. Senti, tu hai visto sto video? Cioè, ne sai di qualcosa, un parere, una cosa. Lui ha detto, certo che l'ho visto. Ti pare che non lo vedo? Stiamo parlando, questa è una cosa bellissima. Stiamo parlando di una donna che è stata, almeno un quinquennio, la più desiderata dagli italiani. Che a un certo punto di colpo arriva con un video amatoriale porno vero in rete. Un evento. Ha detto, mi sono eccitato anche io alla sola idea. Un uomo straordinario. Però poi del video è rimasto delusissimo, assolutamente no, proprio no, non è una questione del castissimo. Fatto, dice, non è una questione del fatto che fa cose semplici, perché poi comunque le persone normali non è che fanno quelle cose che fa lui, certo. No, chiaramente, non è quello, è fatto con pochissimo erotismo, e ha citato un particolare, per dare proprio l'idea, la fellazio con la gomma in bocca, no, non esiste, no, veramente sì, no, non esiste questa cosa, no. E già il fatto che lui avesse notato questo particolare mi ha fatto impazzire. Beh, ma lui, oh. Stiamo parlando di uno serio. Parlando di uno serio, esatto. Una persona... John Holmes, poi c'è lui. Esatto, una persona veramente con una sua serietà. E questo era lui. Guglielmo Schilla, invece, non solo ha fatto questo film con Massimo Boldi, che è strano perché lui poi nei suoi video spesso prende in giro questi film. Per cui gli ho chiesto, scusa, ma questi qui non sono i film che tu prendi in giro? Lui ha detto, sì, è vero, hai ragione, cioè, non è cos'è. Però io... Subito dopo di questo ne ho girato un altro che uscirà a marzo, dove è protagonista. Ed è un film in cui Salemme fa il padre, quindi è un film di alto respiro, insomma, non di poco budget. E ho avuto questa opportunità, gli hanno chiesto anche di fare quello di Boldi e ha accettato perché non voleva andare a fare un film da protagonista, a girarlo senza essere mai stato su un set grande. Lui in realtà aveva fatto un altro film da comprimario, ma non era un set grande. Quindi ha detto, prendo la prima cosa che mi capita, la prima che capita, ma voglio fare un film che mi dia sicurezza sull'altro set. E quindi poi lo rivedremo anche nel ruolo di protagonista e per chi sa di cosa sto parlando, gli ho anche chiesto novità su Freaks 2, che è una serie che lui fa solo per internet, e dice che dovrebbe uscire, la cominciamo a girare tra poco, esce verso maggio più o meno. Ma cos'è, una serie? È una serie per la rete web, esatto, è una web series, diciamo che è la più famosa in Italia, anche perché c'è lui, cioè sono lui e altri youtuber molto famosi e questo ha fatto sì che avesse una grande risonanza. Ma che cos'è, un comico lui, cos'è? Lui sì, fa video umoristici, ma Freaks è una serie di fantascienza molto seria, molto ben girata veramente. Sono lui, Claudio Di Biagio, Matteo Bruni e Matteo Bruno, scusate. Claudio Di Biagio, un amico mio, conosco. È un ragazzo di 20 anni questo. Ah no, no, no, no. Clamoroso caso di omonimia. Beh, sì. E Claudia Genolini e Giampaolo Speziale, questo è il team di Freaks. Matrimonio a Parigi, che vi devo dire, è esattamente quello che vi immaginate, né più nemmeno, più Rocco Siffredi. Diciamo che rispetto agli altri film prende una cosa tipica dei film italiani, le commedie anni 50, tipico. Divide in due nettamente il cast, giovani e vecchi. I vecchi fanno i comici, hanno tutte le gag più assurde, fanno i cretini, come faceva Totò, facevo il cretino. E poi parallelamente ci sono i giovani che hanno una storia d'amore molto lineare, che cercano di affermarsi nella loro vita, hanno una parte seria, paradossalmente. Ecco, come Aldo Boldi. Fabrizi e Totò, esatto. Nel film Totò di... Fabrizi dei giovani d'oggi? Forse sì, che sì. Ma poi c'è anche quello dove loro hanno i figli che si sposano. Quello lì, quello devo dire, non mi ricordo neanche io il titolo di quello, però ho capito quello. Che sbagliano, che poi i si sbagliano vestiti, smoking, sì. Esatto, mi dico. Insomma, riprende questa struttura, ma chiaramente, che ve lo dico a fare, non, poi la parte comica non regge per nulla, sono sempre le solite gag. Massimo Boldi che si trattiene nella pipì, che non ce la fa più, entra in bagno, ma nel bagno c'è Biagio Izzo in vasca che si fa la vasca. Vabbè, cioè, vabbè, per famiglie va bene così. Un certo tipo di famiglie, comunque. Vabbè, però, no, tutte. Per famiglie, dai. Famiglie con cameriere? Con cameriere e Ferrari. Ferrari fuori dal cinema. Va bene, ci fermiamo per qualche istante. A tra poco, non andate via. Mi dicono che ci sia un grandissimo traffico sulla tangenziale, tutti sono imbloccati lì. Ho ritardato per venire qua proprio perché mi ci sono imbattuto anch'io. Suo figlio si sposa una cocozza, è vero. È vero. Bravissimo. È vero, bravissimo. Bravissimo. Cosa ne pensi di Melancolia? Oh, Melancolia è un altro film che esce questa settimana, è il nuovo film di Lars von Trier e come sempre capita quando escono i film di Lars von Trier si scontrano amanti e odiatori, perché non c'è una via di mezzo con Lars von Trier, anzi io direi che l'unica via di mezzo con Lars von Trier sono io, che alcuni me ne piacciono altri no, però solitamente ci sono amanti e odiatori. Allora, che tipo di film è Melancolia? Stiamo parlando di un von Trier, avete capito, insomma, un regista autorialissimo che gira questo catastrofico. Melancolia è un catastrofico, cioè racconta una storia in un momento in cui un pianeta si sta per scontrare contro la Terra e all'inizio del film, quindi subito, vediamo l'impatto. Poi il film si svolge prima, però quindi fin da subito sappiamo che questo pianeta impatterà il pianeta. Cioè questo pianeta impatterà il nostro. Melancolia assomiglia, se conoscete von Trier, più a Antichrist che ai film precedenti tipo Le Onde del Destino o Dancer in the Dark o Dogville. E a me personalmente non è piaciuto molto, però ha dei pregi indubbi, cioè ha un inizio simile a quello di Antichrist con una musica classica, le immagini al rallentatore di una bellezza sconfinata, lascia immaginare veramente il meglio. Forse von Trier ha sempre avuto un gusto per l'immagine raffinatissimo e veramente coinvolgente. Questo forse è una delle sue punte massime, perché raramente ho visto cose così belle. Però poi il film, la parte narrativa, che sembra un po' un Festen rimaneggiato, Festen che poi non era quella di Winterberg, però sembra un Festen rimaneggiato perché c'è questa festa di matrimonio. A me ha deluso molto, è molto lungo, è molto sfilacciato, chiaramente poi recupera tutto nel finale quando arriva la catastrofe, però è un po' tardi, insomma, a me mi ha un po' deluso, però chiaramente se amate Von Trier è immancabile. Stavi seguendo? No, stavo vedendo una cosa. E questo era Melancolia, invece... Sai che sono rapinato da te. Invece io ho per te alcune news dal mondo del cinema che ho raccattato durante la settimana. Bene, bene. Allora, è una rubrichetta questa qui. Questa è una rubrichetta, esatto. Ah, è una rubrichetta. Allora, è importante precisarlo. Allora, innanzitutto, notizia facile, è uscita la data di uscita del nuovo Batman, The Dark Knight Rises. Uscirà il 29 agosto, quindi hai voglia. Porca hai mia. Voglia. Ma magari che è già uscito o no? No, no, no, no, no. Uscirà quasi, quasi contemporanea. Quindi insomma quasi tutti quanti lo vedranno in questa stagione. Anche perché poi l'estate, come sappiamo, per gli americani è la stagione migliore. Quindi loro solitamente li lanciano d'estate. Zhang Yimou è il più grande regista cinese contemporaneo, forse, forse il più grande di tutti i tempi. Il regista di Hero, La finestra dei pugnali volanti, La città proibita, insomma di film, non uno di meno, Lanterne rosse. Il prossimo film suo si chiamerà The Flowers of War. È uscito il trailer e, sorpresa delle sorprese, il protagonista non è un cinese. Cioè è un film cinese ed è un film ambientato nei giorni in cui Nanchino, l'allora capitale della Cina, era assediata dai giapponesi nel 37. Quindi è un film di guerra, un film di guerra anni 30. Il protagonista è Christian Bale, cioè Batman, cioè l'ultimo Batman è il protagonista. Fa un finto prete e quindi sarà un film mezzo in inglese, mezzo in mandarino. Si chiamerà, come dicevo, The Flowers of War. Io ho visto il trailer e sembra veramente quello che si diceva, cioè un Salvate il soldato Ryan cinese. Mi dicono che questa potrebbe essere la tua sigla. Cos'è? Devi venirla a vedere. No, devi venire qua. Devi venire qua. Ci posso stare? Ci puoi stare? È stupendo. Va bene. Allora, Vasquez non ci capisce niente. Ecco. The Must Be the Place è bellissimo. E per dar retta a una sua recensione positiva su My Movies, ieri sera mi sono sorbito su Cielo. Mm-hmm. Una boiata pazzesca. Che la speranza. Non lo so. Ah, beh, però. Questo è Gianni. Gianni è mezzo rimbambito pure lui. Poveretto. Mica cavoli. So, stavi dicendo. Non posso crederlo che una mia critica ti abbia fuorviato. Vabbè. Dicevo, altra notizia è il fatto che il Re Leone 3D, che sarebbe in realtà il Re Leone della Disney negli anni 90, rimesso in 3D, che ha fatto sfaceli al box office americano perché è stato rimesso al cinema in 3D, sarà al Festival di Roma e in chiusura, per chiudere in bellezza, è ufficiale e quindi è sicuro che si farà. Il film live action, quindi dal vero, con attori in carne ed ossa, di Akira sarà fatto, sarà americano e sarà diretto da Jaume Collet-Serra, che è un regista spagnolo che agisce in America da molto tempo. E molto probabilmente Kaneda, cioè il protagonista, sarà interpretato da Garrett Hedlund, che è quello di Tron Legacy, per dire. Quindi rimaniamo sempre in quest'ambito. Bene, notizie invece su 007? Questa settimana non ce ne sono state. Però c'è stata una grande sorpresa al box office che parzialmente va a dar ragione al buon Gianni. Ovvero This Must Be the Place, il film di Sorrentino, che io pensavo, ipotizzavo, sarebbe andato non bene al botteghino. In realtà è andato benissimo. Ha fatto la seconda posizione, a un pelo dal primo. Ma visto che il primo è un film in 3D, è I Tre Moschettieri, che quindi gode di un biglietto maggiorato, cioè si paga di più per entrare, quindi è chiaro che incasserà di più. In realtà è This Must Be the Place il film che ha fatto più presenze, più è stato visto da più individui. Quindi è andato veramente benissimo. Vedremo questa settimana come va, cioè se il passaparola è buono o cattivo. Però intanto ha fatto un bel incasso. Spirit era il film. Io non ho recensito Spirit. No, no, è il film che gli hai fatto vedere. The Spirit. Ma non era male invece, scusa, no, non era male per niente. Cioè, ha le sue qualità. Comunque non è che l'abbia lodato, però non era male. Mazzo. Va bene, qui c'è, qui la radio è, si usa come le campane della chiesa che scandiscono le giornate. E di Carnage che mi dite, però ne parliamo tra un po'. Ricorda di Carnage, sì, il film bomba che, di cui stai per parlare. Giusto, giusto, no, ne parlerò poco perché poi esce il 4 novembre. Insomma, non è che posso spiattellare tutto. Però di che stiamo parlando? Aspetta, allora, fai vedere. Dunque, il 4 novembre esce Pina 3D, Soliti Idioti, Domani che verrà, Il mio domani. Allora vai. Dicevo, esce il 4 novembre, si chiama Warrior. Allora, è un film a cui anche io davo poche possibilità, perché viene promosso come un film molto alla buona, un film dei cazzotti sostanzialmente, perché sia nel trailer che nella cartellonistica e anche nel titolo fanno vedere gente grossa che si mena. Quindi pensavo, vabbè, un film così. Ne avevo sentito parlare molto bene, però pensavo, vabbè, sarà venuto bene, insomma. In realtà l'ho visto ed è Warrior, è un film straordinario. Io devo dire, è il primo film che vedo nella mia vita che posso senza nessun problema mettere accanto a Rocky come tipologia di film. Cioè, come Rocky non è un film sul pugilato, è un film sull'umanità, su un essere umano che poi ha nella trama ha il pugilato. Anche Warrior è un film che si svolge nel mondo delle arti marziali miste, quindi sostanzialmente botte. Sai perché è un capolavoro? Perché? Perché c'è Nick Nolte. E stavo per dire che c'è uno straordinario Nick Nolte, grandissimo. Tu non hai visto Triplo Gioco? Sì, che invece parlo, perché tu me lo consigliasti. Ed è un non capolavoro. È una chicchetta. È un non piccolo capolavoro, di la verità. Veramente un piccolo capolavoro. Confermo. Fatto veramente bene. Con tutti i crismi. Veramente fatto alla grande. Insomma, questo Warrior, lo dico in due parole, tanto poi ne parleremo quando verrà il momento, racconta i due fratelli che non si vedono e non si sentono e non si parlano da anni, perché poi nel film si capisce perché ci sono stati degli screzi, che entrambi si preparano a fare questo pazzesco torneo di arti marziali miste, dove in palio ci sono 5 milioni di dollari, quindi una cifra che per loro, che sono due disperati, ognuno a modo proprio, ma due disperati, gli serve. Entrambi lo preparano e si incontreranno il primo giorno del torneo, si incontreranno, cioè, vis-à-vis. Poi, come già avrete capito, al momento culmine ci sarà l'incontro tra di loro. Vabbè, ma questo è molto standard, diciamo, come tipo di trama è assolutamente americana nel suo svolgimento, quindi nulla di nuovo. Però la forza pazzesca di questo film è proprio la forza di Rocky, cioè il fatto di riuscire a coinvolgerti in un'avventura che è fisica e violenta e carnale, ma nella quale vince la testa, poi, perché poi è Rocky è un grandissimo film di cuore, e Warrior fa questo lavoro, ma lo fa talmente bene che io ho pianto come non mi capitava da anni. No, giuro, ti sei commosso. Ho pianto tutta la strada fino a casa. Poi a casa, siccome la mia ragazza mi ha visto con gli occhi rossi, glielo ho raccontato e ho ricominciato a piangere e raccontarlo. È un film bellissimo. Ma tu sei un cuore tenero. E io sono un tenerone, ma non solo io. Francesco Lo, che stava accanto a me, anche se n'è andato. Devo andare via un attimo. Ah, no, sì? Pure lui mi ha confessato il giorno dopo, mi ha confessato anche lui ha pianto perché non. Ma per il finale? Proprio per il finale, sì, nel finale. Io già a un certo punto io avevo capito che io avrei pianto, perché so che queste storie di molto virili, vabbè, basta, di uomini, basta, non ne parliamo più, ne parliamo quando uscirà. Cosa, no? Quando uscirà. Comunque è un film veramente, poi sai, adesso non voglio dire, magari a alcuni piacerà di meno, a alcuni di più, però secondo me mi gioco che a qualsiasi uomo, perché gioca molto sulle emozioni virili, a qualsiasi uomo lo coinvolge, perché insomma è un film veramente, veramente ben fatto. Bar Sport, bel libro, divertente, ma non trovo comprensibile come possa essere stato adattato ad un film. Infatti. Come sono riusciti a creare un'unica storia da Bar Sport, vero? Non è un'unica storia, infatti è un insieme di piccole storie diverse, cioè si passa da una scenetta a un'altra, che è un altro dei problemi del film, che invece il film solitamente è difficile farne uno così, è più facile fare uno svolgimento. Dunque, qui abbiamo un attore che dice: ti prego, mi parli di Cara ti amo, che ne pensi? Ci ho recitato io. Mi dispiace, non l'ho visto, mi dispiace. Questo è brutto, vabbè, è brutto ammettere spugna, queste cose, lo so. Spugna. Potevo inventare, dici? Questo ascoltatore ci ha recitato, adesso gli hai rovinato la giornata. Mi dispiace. Ma che vergogna, santa pace. Questa umiliazione mi ha rovinato la giornata. A Vasquez era piaciuto L'amico di famiglia, telegrafico, sì, no? Abbastanza, sì. Non è male. Non mi scappo i capelli, però non è male. Basta. Ah, ragazzi, oggi, questa settimana esce un film straordinario. Che cosa mi stavo dimenticando? Anzi, due film straordinari. Allora, innanzitutto esce Una separazione, che è un film iraniano, e quindi nessuno lo andrà a vedere perché è iraniano e non si vanno a vedere i film iraniani. Ma in realtà è il primo film iraniano che io vedo che veramente mi piace. E dall'Iran in questi anni, in questi ultimi 3-4 anni, sono usciti molti film, perché è un momento in cui loro fanno molti film, nonostante le difficoltà che incontrano. Si chiama Una separazione. È bellissimo, scritto benissimo. Diciamo che se voi avete in testa un'idea preconcetta di come sono i film iraniani, non somiglia a quell'idea, somiglia a un film americano, perché ha una sceneggiatura molto rapida, tanti dialoghi, succedono tantissime cose, tanti colpi di scena. Ma è d'amore? Film d'amore? No, no, anzi, è un film che racconta di innanzitutto una coppia borghese, quindi comunque gente abbiente, che in Iran. Sì, in Iran, in Iran. Che solamente in Iran non vengono mostrate in questi film, che già è strano, quindi fanno una vita normale, non sono bigotti, non sono questa coppia si separa, come dice il titolo, perché c'è un problema col padre di lui che c'ha l'Alzheimer. Lui prende una donna più povera che gli fa da badante al padre, che essendo più povera è anche più bigotta, perché in Iran funziona molto così, e succede un disastro. Succede che lei esce di casa, non si sa perché, il padre quasi muore perché lei è uscita di casa e l'ha lasciato solo. Comincia una battaglia tra queste due famiglie incredibile, colma di colpi di scena, in cui alla fine è pazzesco come nessuno ha ragione, veramente pazzesco. È un film sorprendente che vi consiglio, anche se lo so che fate fatica all'idea di andare a vedere un film iraniano, ma veramente vola, è un film che vola. Oh, puoi dare un consiglio ad un ascoltatore che porta di solito 2000 bambini a Natale a vedere il classico cartone di Natale? Qualcosa uscirà? Ok, allora vado subito a vedere qual è il cartone di quest'anno. Allora, innanzitutto quest'anno esce il 16 dicembre, quindi sarà buono per il periodo di Natale, Il gatto con gli stivali, che è lo spin-off di Shrek. Cioè prendono Il gatto con gli stivali, che stava nella saga di Shrek, e gli danno un film tutto a sé, quindi sempre doppiato da Banderas. Chiaramente non l'ho visto, ma è probabile che sia una produzione buona, divertente, carina, insomma abbia tutti i crismi. Esce anche Arthur 3, cioè che è il terzo capitolo della serie di Arthur e i Minimay, che è una serie di animazione francese che a me non è piaciuta per niente. Io questo, ecco, te lo sconsiglio a scatola chiusa, perché già il primo e il secondo mi avevano deluso moltissimo. E uscirà, questa sarà la vera sorpresa, bisognerà vedere che è, il film dei Muppet. I Muppet, quelli dei pupazzi di pezza. E questo bisogna vedere che sia, perché è impensabile dire da prima come possa essere. Allora, Paranormal Activity 3 non l'hanno presentato alla stampa, cioè questo film non ve lo facciamo vedere. Quindi hanno fatto bene, spilorci, pagate. Un poliziotto da Happy Hour. Ah, un poliziotto da Happy Hour. È un film irlandese, ambientato al giorno d'oggi, comico, commedia. È a metà tra il poliziesco e la commedia. C'è al centro appunto un poliziotto molto anticonvenzionale, di quelli un po' caceroni, che se ne fregano di tutto, che si fanno le canne, vanno a prostitute, quindi molto, diciamo, fuori dai canoni. Che però in realtà ha una sua genialità, ha tutta una sua genialità, e si trova immerso in questo contesto in cui grossi criminali arrivano nella provincia dove sta lui, e lui è l'unico a mantenere una morale. E qui questo film, che appunto è un film ambientato oggi e parla di poliziotti, diventa praticamente un western, dove una persona sola, con un solo aiutante, si batte contro tutti perché sì, perché qualcuno dovrà tenere la giustizia. E quindi, tipo Mezzogiorno di Fuoco, a un certo punto li andrà a affrontare da solo, armato di un fucile. È un momento molto bello. Il film è molto carino, molto divertente, tipico britannico, anche se irlandese, comunque tipico britannico, è quello stile là di quella zona del mondo. Se vi piace quella roba, ci sta. Sono curioso di sentirti di parlare di cavalli. Non l'ho visto. Ma sai perché? Sai perché? Ma ho la risposta, ho la risposta. Perché lo devo vedere con la mia dolce metà, che è appassionata di cavalli. E questa, oh, è questa. Una cavallerizza. Questa è la mia croce. Questa è la croce della vita mia. Beh, potevi portarla alla presentazione anche lei. Era di mattina e lei lavora. Ah, ce le ho tutte le scuse, ce le ho tutte. Perché invece non pubblicate dei podcast di questa ottima rubrica, dato che grande 9 venerdì su 10 non posso mai ascoltarvi, scrive a Luca. E qui mi dai proprio il là per dire che esatto, mio fratello ha mandato il messaggio che gli dicevo di mandare. I podcast della trasmissione ci sono, e come, li pubblico io di me medesimo, di mia mano, di persona personalmente. Li trovi dovunque, praticamente, su Facebook, sull'account mio, sull'account di Faster, sul sito di Faster. Se cerchi su Facebook Cellulite Celluloide, ma anche se cerchi su Google normale Cellulite Celluloide Radio Rock, quindi non hai scuse. Anche su iTunes, se usi iTunes, pure su iTunes lo provi ovunque. Vabbè, qui scrivono: io ero rimasto al bar sport di Collino Banfi, che è carino. Al bar dello sport, bar dello sport, sì, però è carino. Non ha a che vedere con non niente. Invece grave, io non ho visto un film questa settimana, è molto grave, perché non mi hanno invitato. Ah, tiriamo fuori subito nomi e cognomi dell'ufficio stampa. Lo denunziamo. Non so chi è perché non mi ha invitato e quindi non so chi è. Ah, già. Però comunque è gravissima questa cosa, perché si chiama Parking Lot 3D ed è un film italiano in 3D realizzato con un 3D tutto particolare, mi hanno detto, con una tecnica che si sono inventati questi. Ora io non so com'è, non so. Dovrò andarla a vedere. Che vergogna. Ah, forse lo sai che vabbè, abbiamo parlato di tutto, se non sbaglio. Super, Polizia Tre, allora, separazione. Non manca Super. Allora, Super è un altro di quei film buoni che esco una settimana, che vi volevo consigliare. Super racconta una storia che già abbiamo sentito. Cioè, la storia di una persona normalissima che ad un certo punto, siccome ritiene di aver subito dei torti, cioè la sua ragazza scappa con un altro, ma lui si è convinto che in realtà lui la plagia a lei e quindi la vuole riconquistare, si cuce un costume da supereroe perché vede un supereroe in televisione e comincia a agire come un supereroe, pur non avendo chiaramente non solo nessun potere, ma essendo anche un, insomma, un uomo di una medietà straordinaria. Dicevo, è una storia già vista, ad esempio Kick-Ass o Zebraman, insomma, ci sono parecchi film di questo tipo, ma questo film ha veramente una marcia in più, perché è realizzato da James Gunn, che è uno che viene dai film della Troma, che sono quelli di Toxic Avenger, quelli che fanno quei film di serie Z, che vogliono essere di serie Z e che sono molto anticonvenzionali. Lui invece ha fatto questo film, che è un film di serie A, c'è Kevin Bacon, c'è Liv Tyler, c'è Ellen Page, ci sono un sacco di attori di primo piano, ma ha mantenuto quello spirito anarchico, anticonvenzionale, che va contro tutto e contro tutti, anche nel fare un film che sembra canonico, perché sembra la storia tipica della persona che vuole fare l'eroe, conquista la donna, ma in realtà, mentre fa finta di celebrare questo eroe come si celebrano sempre gli eroi nei film americani, lo critica moltissimo, perché questo qui è uno che vuole fare il vendicatore perché vede in televisione un telefilm di un supereroe cristiano, che in realtà chiaramente il film ha sfondo di commedia, però poi è violentissimo, come spesso capita agli integralisti, è violentissimo e fa delle cose, il film eccede molto in violenza e in efferatezza. Ti mostra proprio l'assurdità e la violenza di questo tipo di modo di ragionare, dell'eroismo, e quindi anche una critica in sé allo stile americano, tutto fatto con molto divertimento, con molta autoironia, con molto senso della commedia. Per cui si chiama Super e ve lo consiglio, molto molto carino. Oh, torna Tom Hanks e Julia Roberts all'Amore all'improvviso. Sì, L'amore all'improvviso esce settimana prossima. E ci dimostra una cosa che devo dire, alle volte ci dimentichiamo, ma è una grande verità: il modo incredibile che hanno gli americani di reagire alla propria contemporaneità. Cioè, il cinema americano per tanti anni è stato uguale perché la società americana per tanti anni è stata uguale. Cioè, erano i numeri uno del mondo, il benessere, siamo noi, e abbiamo sempre visto un certo tipo di film. Ora che hanno i loro problemucci, anche proprio nel quotidiano, subito. Cioè, è almeno un anno che si cominciano a vedere film con persone in crisi. Questo qui è un altro film così, è girato anche da Tom Hanks, e lui interpreta un uomo che perde tutto per la crisi economica. Aveva un lavoro normalissimo, ma viene licenziato con una scusa stupida, non ha niente, si deve reinventare, e poi su questo chiaramente innestano la classica storia all'americana, incontra lei e va bene. È un film molto carino, molto divertente, però è sorprendente come in un niente si adattino e comincino a raccontare il loro presente, e lo fanno anche molto bene. Questo è un film veramente carino, che ha una posizione anche interessante sulla disperazione che può dare la crisi economica, la perdita di lavoro, l'incertezza del proprio futuro. Come spesso succede agli americani, hanno poi questo positivismo del facciamoci forza tutti insieme, diamoci una mano e ce la faremo un'altra volta, che per certi versi può essere retorico, per carità, ma ha un suo fascino al cinema, specialmente se poi noi abitiamo in un altro paese. Ma parliamo della criptonite nella borsa. Ok, questo mi coglie impreparato. Ce l'hai fatta. Questo mi coglie impreparato. Peppino ha 7 anni e vive in quella che oggi verrebbe definita una famiglia disfunzionale. Ah, ma questo, siccome siamo a Napoli, del Festival di Roma, ecco perché non l'ho visto, perché io non posso parlare di film del Festival di Roma. Deve essere straordinario. È bellissimo, immagino. Probabilmente è straordinario. Il festival che vi ricordo inizia venerdì prossimo. Comunque, questo l'abbiamo detto. Quindi non ci sarai venerdì prossimo. Esatto, sarò al festival. Quindi l'ascoltatore che proprio non ce la può fare a stare senza di me, viene al festival e mi trova lì. Senti, parliamo di digitale. Sono e pronto. Pellicola. Ne abbiamo parlato questa settimana, ho fatto ascoltare molti vinili, quindi musica su LP, eccetera, e un ascoltatore molto intelligentemente ha detto: ma è la stessa cosa, cioè è meglio la pellicola, si vede meglio la pellicola o si vede meglio il digitale? Allora, non è la stessa cosa. E il motivo è questo: la pellicola è un supporto straordinario. Ha il problema, che forse è anche un po' il problema del vinile, cioè della fragilità estrema. La pellicola è infiammabilissima, si rovina come niente. Veramente un supporto da quel punto di vista della durata nel tempo terribile. Però è straordinario perché cattura, diciamo, il punto. Sai, come nella musica devi catturare il suono nella sua ampiezza, tutte le frequenze. Certo. Nel cinema devi catturare tutta l'ampiezza dello spettro della luce, riuscire a prendere tutto per avere poi un'immagine profonda, pastosa e tutto quanto. E spesso lo vediamo, i video, quelli fatti in digitale povero, quello delle macchinette che ci compriamo noi o dei telefonini, sono piatti, hanno i colori quasi tutti uguali, hanno anche le foto, hanno i bordi scontornati, se vedete quelle chiaramente povere. Però in più il digitale, dal punto di vista del video, ha che innanzitutto, vabbè, la compressione non funziona come la compressione audio, cioè non elimina nulla, semplicemente le riduce le ridondanze, quindi vabbè, per farle in breve, non vi leva niente, ma soprattutto la possibilità di catturare dati e informazioni è superiore a quella della pellicola, del digitale, del audio, non so come dire. È come se io potessi utilizzare sempre una registrazione digitale alla massima potenza, capito? Alla massima, e a quel punto tranquillamente puoi arrivare ad avere la stessa qualità della pellicola o forse di più. Poi c'è un'ultima differenza, è che molto del, non tutto, ma molto della qualità del video dipende dalla grandezza dell'immagine che catturi. Cioè, come l'HD è un'immagine semplicemente più grande, quindi la vediamo più definita, così tu più allarghi l'immagine, più allarghi quello che catturi, più riesci a catturare dettaglio. Certo, poi devi avere un supporto che riesce a non ridurre il rumore, vabbè, non è così semplice, però diciamo che è una variabile importante. E da quel punto di vista la pellicola è limitata, perché ha quella dimensione, è quella. Infatti alcuni film grandi, storici, epici, non erano in 35 mm, ma in 70 mm, cioè tipo di 2001 Odissea nello spazio è stato fatto in 70 mm, che è una pellicola grande il doppio sostanzialmente. E c'è proiettore che... Ci vuole il proiettore apposito, è difficilissimo vederlo in 70 mm, io per esempio non l'ho mai visto in 70 mm. Ma si vede meglio secondo te? Cioè ti hanno raccontato... Sì, no, perché è più grande, più dettaglio, è l'immagine indubbiamente migliore. Anche Lawrence d'Arabia è in 70 mm, tant'è che se avete visto Lawrence d'Arabia ha quelle immagini del deserto in cui si vede un puntino sullo sfondo, vero, e vero. In 70 mm chiaramente si vede meglio. Questa Ma cosa perché digitale non hanno proseguito a farlo fare film in 70 costava mm. Costava un costo esorbitante. La pellicola poi, ecco, è un supporto che costa una cifra tantissimo. È come pazzesca. la bobina quando registri in analogico. Esatto, il 70 mm costa il doppio. Cioè adesso costerà molto meno, perché costa veramente molto meno, però insomma. Però insomma, col video digitale puoi allargare l'immagine a quanto ti pare. Adesso, per esempio, lo standard di ora è il 2K, si chiama, cioè è che identifica la grandezza dell'immagine ed è uno standard assolutamente buono, è quello con cui vedete i film al cinema, ma già stiamo pensando al 4K e non è che devi comprarti un altro proiettore, poi insomma è molto più facile andare avanti e migliorare il supporto, per cui se oggi possiamo, ci sarà sicuramente qualcuno che ti dice no, oggi è ancora meglio la pellicola, e forse ha ragione, domani stava scrivendo un ascoltatore che anche l'HD è compresso. Sì, comunque una forma di compressione esiste, ma non elimini delle frequenze, semplicemente se, diciamo per farla semplice, se in questa scena io ho una parete verde e una persona, e in quella dopo anche, solo che la persona si è mossa di poco, tutto quello che non si è mosso non lo duplico, è quello di prima. Sostanzialmente, quindi non devo ripetere i dati per ogni fotogramma, ma quelli che rimangono costanti fai riferimento a quelli di prima, sostanzialmente. In questo modo si comprime. Quindi la tua conclusione è: si vede meglio la pellicola. Allora, oggi è opinabile. Posso dirti che oggi è opinabile, siamo molto vicini, c'è chi dice uno, c'è chi dice l'altro. Domani certamente è digitale, cioè comunque è un supporto che in potenza può essere nettamente migliore. Se non ci fosse il 70 mm. Chiaramente, se ci fosse 70 mm, però bisognerebbe raggiungerlo. Come dire, il supporto video digitale non è limitato, è solo che devi farlo evolvere. Ci vuole tempo, esatto. Tecnologia che evolve. Esatto, però potenzialmente ci arriva. Detto questo, tutti i grandi registi, quelli molto tecnici, sono pazzi del digitale, tutti quanti. Tranne. Beh, grazie, perché lì tagli, copi, incolli. Anche quello, ma anche della resa, anche di come si vede, anche di quello che com'è l'immagine, sono pazzi di questa cosa. Tranne due, ci sono due che dicono sempre: l'ultimo film che verrà fatto in pellicola sarà il mio, perché io non l'abbandonerò mai. Sono Eastwood, che tra poco ci lascia, e Spielberg. Questi due, che poi Spielberg è uno tecnologico, non è uno miseria. Esatto. Però lui la pellicola manco morto l'abbandona. Ma lui ha fatto delle cose in digitale? Beh, per esempio adesso ha dovuto fare il Tenten, che è un cartone animato digitale, quindi non c'ha pellicola. Però lì non c'è la scelta, è così, punto e basta. Però diciamo che per i suoi film dal vivo, con attori in carne e ossa, lui non transige. Siamo arrivati alle 20:57, noi ci sentiamo non venerdì prossimo. Ho un'ultimissima rubrica che c'erano in teglia l'altra volta, però è importante, è le domande degli ascoltatori. Cioè, gli ascoltatori mi avevano posto delle domande, io ho detto, io mi preparo e poi do le risposte. Ah, perfetto, vai. E una alla volta, chiaramente. Questa puntata rispondo alla prima domanda, che era, me l'ero segnata, perché Gola Profondo è così considerato un grande film, così importante e così stimato? Allora, la motivazione è sia semplice sia complessa. Quella semplice e diretta è che quando è arrivato nel 72 era il primo film porno moderno, cioè non il primo in assoluto, però il primo come lo conosciamo noi oggi. Quindi è andato via a un filone del porno con una trama ovviamente fino a un certo punto, però insomma che avesse una trama, avesse dei personaggi e intendesse anche raccontare una storia oltre ad avere le parti di porno, che è quello che conosciamo per certi versi anche oggi. E soprattutto arrivava nel 72, quindi a un passo al 68, dopo Rassmeyer. Rassmeyer è stato un innovatore tantissimo, mitico, di queste cose, grande, mitico, l'ho amato e lo amo tutto di lui, straordinario, tutto. Arrivava dopo Rassmeyer a continuare quell'idea, cioè di fare un cinema che fosse forte, perché il porno più forte del porno, che fosse forne, ma scardinasse anche certi preconcetti, che fosse, non fosse solo mostrare l'atto sessuale, ma fosse anche prendere in giro e far capire che un certo modo di intendere la sessualità. Rassmeyer è geniale, sì, alcune cose inimitabili. Lui, diciamo, Rassmeyer non era porno, era softcore, cioè sì, comunque, diciamo che la differenza tra il porno e il softcore è che c'è porno quando c'è penetrazione ed è mostrata chiaramente. No, però non credo si vedano neanche le diciamo, falli in reazione. No, mi sembra di no. Mi sembra di ricordare che in Vixen forse sì. Però insomma, sono dettagli. Non credo. Comunque che io ricordi no. Gola Profonda portava nel porno questa idea di dimostrare che può esistere anche un altro tipo di sessualità che non è malata, che non è da prostituzione, insomma, far vedere una qualcosa di anticonvenzionale. Per quello fu incredibile e fu il film che praticamente fece aprire le sale porno, il cinema a luci rosse. Allora, il 2K è il mio lavoro. All'Istituto Luce sto scannerizzando tutto l'archivio storico Uno Spettacolo. Ah, grande. Adesso, vedete, i lavori meritevoli. Perché poi comunque, questo... sai, adesso dirò una banalità, però il digitale poi ti consente, va a finire su internet, certo. Va a finire di qua. Cioè comunque diventa anche pubblico, tuo. Diventa, esatto, sì. Una cosa straordinaria. Vabbè, grazie a tutti e a tutti. Ricordatevi sempre che una pietra che rotola con il mesuco. Ci sentiamo lunedì, stessa frequenza, stessa radio, se tutto va bene. Grazie Vasquez, noi tra 2 settimane. Però telefonicamente ci possiamo sentire. Venerdì possiamo farla? Sì. Pensi sì? Farò un'orrenda marchetta al Festival di Roma. Una cosa che già mi vergogno da ora. Terribile sarà, sì. Ma no. Vergognosa. Pulcinella servo di due padroni. Sarà una cosa terribile. Però sarà così.